Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a riscoprire un vecchio articolo di Gianni Rodari, comparso nel 1952 su Vie Nuove, che era il giornale del Partito Comunista del tempo, in cui questo Rodari, 32 anni, descrive la lotta disperata di una miniera nelle Marche in procinto di chiusura, ma lo fa a modo suo, lo fa con un'umanità e una vitalità, per cui questo articolo diventa quasi subito un racconto, quasi una breve novella, per quanto triste. E forse proprio per questo non è un caso che recentemente è stato pubblicato questo Sepolti Vivi, che altro non è che la riduzione, tra virgolette, a graphic novel di quel reportage giornalistico. I due autori sono, per la sceneggiatura, Ciro Saltarelli, per i disegni Silvia Rocchi. Ma cosa abbia portato Saltarelli a guardare con interesse questo intervento di Gianni Rodari, così antico, riportarlo all'attualità? Ce lo spiega lui stesso. Io ho avuto l'occasione, la fortuna, diciamo, per delle mie ricerche storiche, di imbattere su questo articolo Gianni Rodari, appunto su questa vicenda sindacale specifica degli inizi degli anni 50. Quello che mi ha colpito subito è il potenziale narrativo e narratologico dell'articolo, cioè un Rodari 32enne riusciva a piegare la capacità narrativa e anche rappresentativa, che in quel caso era data alla fotografia dal punto di vista visivo come in inchiesta giornalistica, appunto una profondità, uno sfondo di senso ad una microstoria banale di due innamorati che facevano di tutto per vedersi e per sopportare, insomma, le fatiche di questa dura lotta all'interno di una macrostoria. Quindi ho detto, chissà, sicuramente l'avranno raccontata questa storia, da quanto è bella, è scritta bene. Era una storia che io ho proprio, dalla prima lettura, mi sono immaginato proprio, come dire, la sequenzialità. Rodari era bravo a descrivere la sequenzialità e a ricostruire, insomma, questa storia. Non era stata raccontata, casualmente era in concomitanza del centenario rodariano, perché anche le leggi dell'editoria e del mercato vogliono le loro ragioni, e l'editore che aveva i diritti ha deciso di condurre questa storia. Questa è stata la mia rivelazione, quello che mi ha mosso a tentare una trasposizione, perché io ovviamente ho lavorato un pochino come l'orafo. Avevo questo testo di Rodari, che ovviamente cambiare una parola Rodari o tagliare una parola Rodari è operazione ovviamente che rimane sulla coscienza se non viene fatta opportunamente. Per cui l'idea è stata quella di individuare all'interno dell'articolo i passaggi più visuali, i passaggi che riuscissero ad essere trasposti in immagini nella maniera più efficace, e allo stesso tempo usare la rappresentazione visiva come strumento per rendere più leggera la narrazione e anche più accessibile a una fascia di lettori, ovviamente, che di lotte sindacali raramente ne sentono narrare. Per cui l'idea era quella, era di cogliere questa opportunità, insomma, dal testo di Rodari, di trasmettere un contenuto forte, quello della solidarietà di una comunità, appunto della ciclicità anche della ricchezza, ma appunto della forza del lavoro e comunanza, attraverso un linguaggio nuovo, insomma. Questo è stato il tentativo di questo libro che abbiamo realizzato nel 2020, l'occasione del centenario della nascita di Rodari, è un graphic journalism all'inverso, cioè il giornalismo e la ricchezza della pubblicistica degli anni 50, che appunto vedeva in scrittori come Rodari dei redattori un potenziale narrativo, ancora oggi si è supportato appunto da un linguaggio che fosse più accessibile ai più. Allorché in ogni bettola messicana danzano tutti al suono della baiana. Vien di lontano un canto così accorato, è il minatore Bruno laggiù emigrato. La sua canzone è il canto di un esiliato. Cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Portami in sogno verso la patria mia, portami un cuor che muore di nostalgia. Nella miniera è tutto un baglior di fiamme, piangono bimbi, spose, sorelle e mamme. Ma un tratto il minatore dal volto bruno dice agli accorsi, se titubante è ognuno, da solo andrò laggiù che non ho nessuno. E nella notte un grido solleva i cuori, mamme son salvi, tornano i minatori. Manca soltanto quello dal volto bruno, ma per salvare lui non c'è nessuno. Cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Vale migrante ognor con la sua chimera, e lascia la sua vita nella miniera. Dopo questo incontro con l'articolo di Gianni Rodari, Ciro Saltarelli si è interrogato sulle radici del grande scrittore di Omegna e allora ha incontrato il pioniere, scoprendo alcune cose interessanti come lui descrive. Grazie all'opera veramente magnifica di digitalizzazione che è stata fatta di tutto il contenuto documentale del pioniere, sono riuscito a ricostruire appunto e a studiare meglio queste nuove forme di comunicazione che si andavano strutturando in concomitanza alla rinascita di un clima democratico all'interno del nostro paese. E appunto mi sono interessato a capire quanto fosse reciproco il nuovo clima democratico, cioè quanto questo permettesse la produzione e la sperimentazione di questi metodi, di questi racconti illustrati, e quanto questi racconti illustrati costruissero le basi per creare quei lettori piccoli, per creare un contesto democratico fattivo e non solo dal punto di vista legislativo o costituzionale. In particolar modo quello che mi ha colpito è lo spazio che il Pioniere, quindi racconti a fumetti e i racconti illustrati, davano alla storia. Cioè si veniva da un dopoguerra, dal 45, dove i manuali di storia erano praticamente quelli del ventennio fascista, stralciati semplicemente delle ultime pagine che raccontavano l'attualità, che raccontavano il fascismo. E i giovani del tempo, i giovani dal, non so, dal 45 che riprende la scuola al 55 che l'editoria scolastica rientra a pieno ritmo, non riescono a trovare, a soddisfare la propria domanda di cultura storica, di conoscenza sia dell'attualità ma anche delle radici storiche sulla quale si innestava questa attualità nuova, democratica, repubblicana, trovavano nel Pioniere delle reinterpretazioni e delle aperture verso la conoscenza storica veramente pionieristica, delle sperimentazioni che poi entreranno a pieno titolo sia nella pedagogia scolastica italiana, ma più che altro costituiranno appunto il corpus metodologico e di sperimentazioni di Rodari, che poi passerà insomma alla cultura pedagogica, possiamo dire anche oltre i confini nazionali. Tutto questo ad esempio viene esplicitato, come lo possiamo dimostrare? Lo possiamo dimostrare ad esempio che la storia romana repubblicana veniva completamente ignorata dal fascismo, perché il fascismo era funzionale per la propria propaganda la storia imperiale, la storia dell'impero, delle insegne imperiali di cui ovviamente si appropriava. Ecco appunto che il Pioniere dal primo numero esce appunto con la leggenda di Roma e riserva molto spazio alla storia repubblicana romana. Lo fa con i disegni di Verdini e con i versi di Cavaliere, e questo ovviamente rappresenta un modo del tutto innovativo di raccontare la storia, di venire a contatto con la storia. È come se tutto il corpus di intellettuali che girava attorno al Pioniere riuscisse a trasferire all'interno del Pioniere degli ideali proprio di democraticizzazione della conoscenza. C'è ad esempio una rivisitazione del Risorgimento che era in chiave unicamente regale, c'era il re ovviamente, il Risorgimento era il Risorgimento dei Savoia. Ecco che la scelta del Pioniere di affrontare le avventure di Garibaldi in Sud America apre degli scenari ai giovani totalmente nuovi. Che cosa ha a che fare tutto questo con il graphic journalism? Apparentemente nulla, se non ricostruire quel processo per cui la comprensione dell'attualità avviene anche attraverso dei dispositivi, insomma, di sperimentazione grafica, visuale e artistica diversi da quelli canonici. Ovviamente il Pioniere rappresentava una novità semplicemente dal punto di vista cromatico rispetto al libro di testo. Ovviamente leggere la storia sul Pioniere con le illustrazioni a fumetti era ovviamente una novità assoluta. E probabilmente questo crea il terreno per quei giovani lettori che poi negli anni 60, 70 e 80 daranno al fumetto la dignità letteraria e editoriale che si merita. So Caio Gregorio er guardiano del Pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Del divismo prendi il caso. Non per fare il picanasso, ma i miei tempi quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, per sto semplice motivo si faceva chiamare divo. Con l'allegro risultato di sentirsi autorizzato ad aver di tutti i divi i vantaggi relativi. Una villa sui Parioli, la piscina con tre moli per tenerci lì attraccata la triremi cabinata, bighe a grosse cilindrate, i sesterzi a gran palate, stravaganze tutte matte tipo il bagno dentro il latte come fe diva Poppea, e la gran prosopopea di pretender che la gente a vederli solamente desse in smanie e convulsioni. Mentre invece lo si sa, se si andava a ben guardare quel grandivo di successo, si scopriva molto spesso che guardato da vicino era un povero tapino. Ma cose sono cambiate, ma al riguardo se notate tutti quelli che hanno successo vogliono sempre pure adesso, con la nomina di divi, i vantaggi relativi. Mentre andando a ben guardare, molto spesso lo si sa, scoprì ancora che il divino è, un povero tapino. Quindi, amici, sia lampante, ben guardare l'importante. Era il più ammirato nei saloni, per le strane dimensioni. Si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dì. Sempre tutto quanto infomatato, ricercato nel vestì. E portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlot. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Per destino fatale, cadde in un canal, ma rimase a galla. I suoi piccoli piedi, nel suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E pensavano e me, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Entriamo in una produzione che è legato alla serie Giallo China, il secondo volume di questa collana, che in qualche modo parla del noir e lo fa tramite le nuvolette. Il disegnatore è Gaspare Orrico, mentre i testi sono dello scrittore bolognese Gianluca Morozzi, intervistato dal nostro William Piana. Nuovo fumetto di Gianluca Morozzi e Gaspare Orrico, Chi non muore. Le edizioni sono Pendragon, Gianluca Morozzi è qui con noi. Questo tuo lavoro è una continuità con la tua linea, riporta nuovi percorsi, insomma vorremmo saperne qualcosa di più. Allora, Giallochina ha come scopo trasformare in graphic novel dei romanzi già usciti che rientrino nel genere del giallo o del noir. Nel mio caso, per fare la seconda uscita della collana, ho pensato a un mio romanzo uscito per Guanda ormai 12 anni fa, se non conto male, che si chiama appunto Chi non muore, che è una storia che parte in un modo molto pop, ovvero fra sale prove bolognesi e gruppetti di base, con una protagonista femminile, la bella Angie, una studentessa fuori sede a Bologna di 22 anni, che è aspirante cantante, che si imbatte in uno strano mistero mai risolto, in un caso che riguarda una band sterminata in gran parte senza particolari motivi apparenti molti anni prima. E inizio un'indagine su questa vicenda, un po' per caso, un po' per gioco, un po' per amore dell'unico superstite, ma la cosa pian piano prende toni sempre più horror, fino a un finale che spero che vi lasci. Tra l'altro comincio dalla fine. Ok, come il romanzo è... che comincia con lei, è la prima pagina, quindi comincia con Angie in una soffitta morente coperta di sangue. E da qui quindi, poi il percorso sviluppa. Si dice, no, che quando c'è questo momento passa davanti tutta la vita, quindi è inizio, quello che accade a lei, esattamente. È quello che purtroppo capita a una delle coprotagoniste. Ho parlato prima di continuità, discontinuità nella tua linea, però qui c'è un bel trade union proprio per portarti a questi motivi di conversazione. Domanda però banale, una scrittura letteraria e una scrittura a fumetti, come ti poni divergenze, convergenze e quant'altro? Fondamentalmente la questione che più mi trovo la differenza più grossa sono i dialoghi, nel senso che mentre in un romanzo tu hai tutto lo spazio che vuoi per scrivere un dialogo anche di 9 pagine consecutive, se vuoi scrivere un dialogo monologo anche, nel fumetto hai i balloon vanno riempiti e non devono coprire il disegno, quindi hanno spazi un po' più limitati, quindi riuscire a dire tutte le cose essenziali usando un po' meno parole, in modi più pratici. E poi essendo un romanzo, una cosa molto complessa, questo romanzo è pieno di cose, qualcosa è rinunciato, diciamo, quando un romanzo diventa un film, qualcosina di minore elimini, lasci un po' più l'essenziale, quello che è l'atmosfera, ma per il resto non è il primo fumetto che scrivo, spero non sia l'ultimo, per cui sono abbastanza addentro questa pratica, anche se sono più romanziere, chiaramente qua sono un dilettante in questo campo. Diciamo che poi quello che abbiamo omesso viene riportato dalle immagini. Certamente, fa tempo a dire le cose un po' col dialogo, un po' con le immagini, lì Gaspero Ricco ha fatto un lavoro tra l'altro clamoroso, veramente spettacolare, lo vedrete leggendo le tavole che ha tirato fuori dal suo pennino. Ora sono diventate graphic novel e io ogni tanto qualche interrogativo me lo pongo su questi cambiamenti, sai che sono un vecchio dinosauro, no? Certo. Allora ne approfitto per chiederti, ma i tuoi fumetti, i tuoi giornalini, quali erano, quali sono al limite? Ecco. Allora, la differenza fondamentale, graphic novel è qualcosa che nasce di per sé come volume unico e compiuto, come un romanzo. Sì. I giornalini che io tuttora leggo ampiamente, i miei Spider-Man, i miei Batman, i miei X-Men, sono serie, sono seriali, certo. Per cui hanno una escono mensilmente generalmente o comunque periodicamente, non hanno tecnicamente un finale, la differenza di base sarebbe questa, mentre tecnica. Cioè Pompeo, oddio, no, forse non avete sbagliato, però sono puntate, non sono graphic novel fondamentalmente, ecco, per cui questa è uscita con un volume unico, non sono altri, non è uscita puntate, quindi è graphic novel, diciamo la differenza è questa fondamentalmente. You know, it's such a shame that it's so hard to find good honest legal help these days. The problem with my brother and me is we're recidivists, habitual criminal offenders. No attorney wants to go near us. I gotta find him a lawyer. I don't know what I'm gonna do. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.